Questa è una donna diversa dalle altre che avevo fatto fino adesso, sposata, probabilmente che viveva in un mondo, diciamo, fatto di bellezza, di agiatezza, anche di ricerca dei propri sogni. Infatti, di fronte a un po' un film dell'orrore, no? In un certo senso, perché è come se improvvisamente la tua vita si trasformasse in un incubo. E dentro questo incubo la donna riesce ad avere un equilibrio incredibile.